in primo piano. Buona giornata e buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo come i quotidiani che trovate in edicola stanno affrontando i temi che naturalmente coincidono in gran parte con quanto avete sentito nel corso del giornale radio che ci ha preceduto. E naturalmente campeggiano sulle prime pagine di tutti i giornali soprattutto due circostanze. L'una è il rimedio che il governo sta cercando di disegnare con un emendamento alla legge di stabilità, una correzione al disegno di legge di stabilità per i risparmiatori coinvolti nel crack delle quattro banche, nel dissesto delle quattro banche, tra cui la più nota purtroppo per il suicidio che è avvenuto, la banca dell'Etruria, e l'altra è l'accordo sul clima a Parigi, accordo che viene definito unanimemente storico, anche se si segnala appunto già negli richiami di prima pagina che non ci sono di fatto delle sanzioni, quindi è un accordo che si basa sugli impegni degli stati. Vediamo allora come questi due temi si dividono le prime pagine dei giornali di oggi. Libero ad esempio apre la sua prima pagina con un come farsi rimborsare i soldi dalle banche, e all'interno contiene poi anche una sorta di lettera per una messa in mora, per dir così, alla banca nel caso in cui si sia toccati da questa vicenda appunto di azzeramento dei bond. Il Messaggero pure sceglie di privilegiare la vicenda delle banche rimborsi dal 30% in su. L'emendamento del governo con un fondo fino a 100 milioni per risarcire gli investitori. Palazzo Chigi sceglierà gli arbitri che decideranno a chi spettano le compensazioni. Nel dettaglio vedremo ad esempio sul Sole 24 Ore di oggi, presentiamo questo emendamento che è sì stato scritto ma manca di alcune parti attuative che non sono dettagli, come ad esempio appunto chi sarà l'arbitro che dovrà decidere poi se e quanto rimborsare ai risparmiatori. Altri giornali invece scelgono di dare più risalto all'accordo di Parigi. Ad esempio il Manifesto ha una grande foto di una manifestazione di ecologisti a Parigi e il titolo è La terra promessa, con l'abituale gioco di parole che conosciamo per il quotidiano che si autodefinisce quotidiano comunista. La terra promessa appunto è la promessa del vertice di Parigi, ma così anche ad esempio per Avvenire, che dedica il suo titolo principale proprio alla intesa raggiunta ieri. Più fiato alla terra, accordo, spiega già nel titolo il quotidiano Avvenire, per limitare il riscaldamento a 1,5 gradi. I gas serra, cioè i gas che sono responsabili dell'effetto serra, quindi del riscaldamento della terra, sono ridotti su base nazionale e volontaria, e questo potrebbe essere appunto, come spiegano i resoconti degli stessi quotidiani, uno dei punti critici dell'accordo raggiunto ieri a Parigi. Così anche il Secolo XIX, che dedica il suo titolo principale al clima, firma storica, il mondo ci prova. Alla conferenza dell'ONU per la prima volta arriva il sì di tutti i paesi. Rialzo delle temperature, ricordo anche il Secolo XIX, l'intesa è sul limite a 1,5 gradi. La Stampa allo stesso modo, patto mondiale per salvare la terra, anche qui con grande foto in prima pagina e un editoriale che parla delle incognite di un traguardo importante. Tra queste incognite appunto, come vi dicevo, anche il fatto che non ci sia un vero e proprio meccanismo di obiettivi e sanzioni, ma sostanzialmente si tratti di impegni. Del resto in accordi di questo genere è anche molto difficile immaginare poi chi potrebbe intervenire a sanzionare il mancato rispetto delle intese. Restiamo sulla Stampa e prendiamo quello che è un po' il terzo titolo, per quasi tutti i giornali è il titolo diciamo di seconda importanza, perché la prima importanza è sempre data o alla vicenda delle banche in dissesto, anzi in risoluzione, come dobbiamo dire, per ossequio al termine che deriva dalle normative europee in materia, o banche in risoluzione, dicevo, oppure Parigi. Ma il terzo titolo che tutti i giornali riportano con grande evidenza sentenza è quello della definitività della condanna per Alberto Stasi, che viene così giudicato in Cassazione colpevole per il delitto di Garlasco, in cui appunto rimase uccisa la sua fidanzata Chiara Poggi. In realtà poi, come ha precisato la Cassazione ieri, qui si trattava di andare a decidere non tanto sulla colpevolezza di Stasi, cioè non nel merito, la Cassazione non giudica nel merito, quanto sulla correttezza dei procedimenti che avevano portato alla sua condanna. Ebbene, la correttezza a giudizio della Cassazione c'è, i procedimenti sono corretti, quindi Stasi è il colpevole del delitto di Garlasco. Un tema che poi suscita anche parecchi commenti un po' su tutti i giornali. Come sapete, i processi che si sono succeduti erano per lo più indiziari, erano quindi, mancando alcuni elementi probatori, la divisione tra colpevolisti e innocentisti, come sempre succede in questi casi, ha suscitato anche la curiosità dei commentatori, non solo dei commentatori di diritto, magari lo vedremo più avanti. Sul Fatto Quotidiano il titolo principale è leggermente diverso: papà Renzi e papà Boschi, tutti Banca Etruria e famiglia. Qui si tratta dell'inchiesta che appunto sta mettendo anche in imbarazzo il ministro Maria Elena Boschi. Ieri lo avete sentito già nel giornale radio, recatasi alla Leopolda, e però non ha rilasciato dichiarazioni su questo, ma infuriano abbastanza le polemiche, perché appunto il padre del ministro ha avuto un ruolo di vicepresidente in Banca Etruria, e si discute appunto sulla responsabilità eventuale, dal punto di vista politico naturalmente, del ministro, se deve o meno intervenire per chiarimenti o addirittura per dimettersi per il governo. Un'ipotesi che lo stesso Presidente del Consiglio Matteo Renzi respinge recisamente. Il Fatto Quotidiano appunto prosegue questa inchiesta, che ritorna un po' su tutti i giornali, naturalmente anche riassumendo quanto successo ieri alla Leopolda, e trovate un po' i resoconti della vicenda su tutti i giornali. Per il Fatto Quotidiano questo è anche però il primo titolo. Il Corriere della Sera torna sulla vicenda delle banche, le tre regole per i rimborsi è il titolo a centropagina più importante. A Parigi però, trovato l'accordo sul clima, è il secondo titolo in ordine di importanza per il Corriere della Sera: limiti all'aumento della temperatura. Tornerei sulle banche, anzi aprirei qualche pagina interna, cominciando dal Sole 24 Ore, proprio dalla vicenda allora dei rimborsi delle banche. Banche, fondo da 100 milioni è il nostro titolo, il titolo del Sole 24 Ore di questa mattina. Arbitri scelti per decreto, Consob esclusa. Qui ci si riferisce appunto al fatto che si era ipotizzato un coinvolgimento di Consob per decidere quanto e a chi dovessero andare i rimborsi, ma in questo momento, nell'emendamento depositato dal governo, questo ruolo non è previsto. E poi, caso Boschi, la maggioranza fa quadrato, ci si riferisce proprio alla vicenda del ministro Maria Elena Boschi. Il Sole 24 Ore poi, come sapete, da ieri ha presentato un manifesto per la tutela del risparmio, una sorta di appunto in cinque passaggi per aumentare la trasparenza tra le banche, i collocatori dei titoli del credito e i risparmiatori. Sono punti molto semplici, ve li riassumo rapidamente. Si chiede una tutela potenziata per il risparmio che vada oltre la MiFID. La MiFID è quella direttiva europea che ci impone, tra l'altro, di compilare appunto questi questionari per giudicare il nostro profilo di rischio. Spesso, come sappiamo nell'esperienza personale e come abbiamo più volte documentato sul Sole 24 Ore, questo tipo di accertamento viene svolto in modo burocratico e non rispondente alle effettive necessità del risparmiatore. Quindi questo è il primo punto del nostro manifesto per tutelare il risparmio. E poi una separazione netta tra l'erogazione del credito e la vendita dei prodotti, cioè chi chiede un mutuo, ad esempio, o chi chiede un prestito, talvolta si può vedere obbligato di fatto oppure con una sorta di moral suasion, per dir così, a sottoscrivere anche prodotti finanziari della banca, dell'istituto di credito a cui si rivolge. Ecco, questo chiediamo che invece sia nettamente separato. Poi la diversificazione a rischio di portafoglio, questo devo dire da anni, da decenni, sempre si ripete, non solo sul Sole 24 Ore, su tutti i giornali, nelle pagine di economia, che è bene non investire mai su una sola voce, su un solo asset. Ecco, bisogna che anche chi colloca i titoli si faccia carico di questa necessità, cioè informi il risparmiatore se il suo portafoglio è troppo sbilanciato e troppo indirizzato a una sola voce. E poi sanzioni mirate sulle forzature di vendita, cioè quando, come è il sospetto appunto per Banca Etruria, ci sono delle assegnazioni quasi forzate, delle vendite forzate ai risparmiatori, bene, questo deve essere sanzionato. E poi le controversie per le quali si chiede di avere come riferimento costante, al di là di quello che succede adesso per queste quattro banche in risoluzione, di avere come riferimento costante la Consob. Vediamo questo emendamento rapidamente prima di fermarci per le previsioni del tempo. Lo vediamo dal contributo di Marco Mobili oggi sul Sole 24 Ore. Spiega che l'emendamento innanzitutto è ancora abbastanza da decifrare, perché è stato ufficialmente depositato ancora con le correzioni a penna. Comunque andrà oggi al voto della Commissione Bilancio della Camera, sarà inserito nel disegno di legge di stabilità che si sta discutendo in queste settimane. Ci sono poche certezze, scrive Marco Mobili, e ancora tanti dubbi. Tra le certezze ci saranno a disposizione 100 milioni che andranno al fondo di solidarietà per il risarcimento dei danni di chi deteneva le obbligazioni subordinate. Una dote che dovrebbe valere meno di un terzo del valore che è stato azzerato, si parla di 340 milioni nelle stime presentate in Parlamento. Però molto è affidato, è lasciato all'attuazione con i successivi decreti del governo, decreti di cui per ora non si conoscono né i dettagli né le intenzioni. Ma adesso ci fermiamo qualche minuto e ascoltiamo le previsioni del tempo. In primo piano. E ancora buongiorno, una buona domenica da Mauro Meazza e buongiorno anche a Peter Bescapè questa mattina in regia, colui che rende possibile tutto questo. Continuiamo nella lettura dei giornali. Come vi dicevo, ci sono sostanzialmente due argomenti, cioè l'intervento del governo per i risparmiatori coinvolti dalle banche, dal dissesto delle quattro banche, e l'accordo sul clima a Parigi. Questi due argomenti occupano sempre i titoli di prima pagina, i più importanti titoli, e poi anche la definitività della condanna di Alberto Stasi è un altro dei temi che trovano spazio nelle prime pagine. Volevo restare ancora un attimo sulle banche, sul Sole 24 Ore di oggi diverse pagine dedicate alla questione delle banche, innanzitutto come sta cercando di intervenire il governo, quali sono i rimedi che sono stati per ora individuati, l'emendamento, cioè una correzione al disegno di legge di stabilità, è stato presentato, sarà, come riferisce appunto Marco Mobili a pagina 3, sarà poi votato in commissione oggi stesso, però è un emendamento che lascia parecchie cose ancora da definire. Le nomine, le modalità dell'arbitrato, ad esempio, cioè i soggetti che dovranno poi decidere quanto e a chi vanno i rimborsi, saranno definite con decreto successivo della Presidenza, un decreto per il quale l'emendamento non fissa però ancora alcun termine. E poi anche come si potrà accedere e presentare le istanze, cioè le richieste di rimborso, dovrà essere definito con futuro decreto da parte del Ministero dell'Economia, che dovrà anche tra l'altro varare questo futuro decreto insieme al Ministero della Giustizia. E quindi le principali risposte, come capite, le risposte che più interessano, quelle più calde, ancora devono trovare una loro formulazione, una loro risposta. Sull'emendamento, diciamo, l'emendamento dà una indicazione di massima, cioè stanzia i 100 milioni dice che poi con successivi interventi si disciplinerà il, veramente il meccanismo complessivo. Tutti i dettagli oggi su Sole 24 Ore, naturalmente insieme alla riproposizione del nostro manifesto per una maggiore trasparenza e anche una maggiore educazione finanziaria da parte dei cittadini. È vero che appunto ci sono spesso delle procedure, delle vendite così leggere, con una certa leggerezza fatte da parte delle banche, le proposte di vendita fatte con leggerezza. È vero anche che c'è una spesso una impreparazione di chi sottoscrive i prodotti. E poi un altro aspetto collaterale, ci sono almeno due questioni collaterali che si intrecciano a questa vicenda delle banche. L'una è il caso politico che riguarda il ministro per le riforme Maria Elena Boschi, l'altra è che i bond bancari in questi giorni, cioè le obbligazioni emesse dalle stesse banche, non ci sono solo quelle emesse naturalmente dalle quattro in difficoltà, hanno avuto un contraccolpo negativo per la venir meno della fiducia. Allora oggi una pagina sul Sole 24 Ore in cui Moria Longo spiega quali sono i punti critici a cui guardare quando si sottoscrivono questo tipo di prodotti. Questi bond bancari hanno avuto in questi giorni una crisi di fiducia, si potrebbe dire, perché i risparmiatori preoccupati dalla vicenda di queste quattro banche, anche se diciamo come complesso dei risparmi degli italiani si tratta di una percentuale molto molto piccola, hanno chiaramente preferito liberarsene, quindi ci sono in questo momento dei contraccolpi negativi. Un'altra pagina oggi su Sole 24 Ore ricorda queste regole europee, appunto del cosiddetto bail-in, cioè di questo salvataggio che deve avvenire con i costi assegnati al sistema bancario e non agli stati, come è avvenuto nelle crisi bancarie degli anni passati, quando appunto l'abbiamo ricordato più volte, anche stati come la Germania o la Spagna hanno fatto ricorso ai soldi pubblici per finanziare, per sostenere le banche che erano in crisi. Due rapidissime citazioni ancora dal Sole 24 Ore sulla legge di stabilità, perché non c'è solo l'emendamento del governo, ce ne sono anche altri. Tra l'altro la TASI, cioè l'imposta che andiamo a pagare entro mercoledì ancora per la prima casa, ma che poi secondo appunto la legge di stabilità non pagheremo più per la prima casa dal prossimo anno, potrà essere aumentata dai comuni, però dovranno varare una nuova delibera. Questo riguarderà naturalmente non più la prima casa, lo riferisce Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, se ne occupano anche altri giornali, perché ci sono diverse correzioni importanti che pure vengono proposte alla legge di stabilità, tra cui anche una maggiore flessibilità nell'uso del tax credit, del credito d'imposta per il cinema e per la lirica. E l'altra citazione che vi segnalo dal Sole 24 Ore, l'andamento dei consumi di Natale è una buona notizia, come diciamo qualche volta la mattina con Alessandro Milan, una notizia da dita incrociate. Natale spinge la ripresa dei consumi, gli operatori sono ottimisti, lo scontrino medio sembra in crescita almeno del 5%, che è una percentuale di tutto rispetto di questi tempi rispetto all'anno scorso. Le catene commerciali, ci riferisce Emanuele Scarci, puntano anche sui forti sconti, sulle promozioni per incrementare gli acquisti appunto di alimentari, elettronica e giochi in questo periodo dell'anno. Passiamo al Corriere della Sera per ricordare quanto si è deciso a Parigi. Un po' su tutti i giornali naturalmente ci sono delle sintesi per punti di che cosa prevede questa intesa. Vi segnalo quella del Corriere della Sera, ma potete trovare analoghe sintesi anche su altri quotidiani. Allora, sostanzialmente il riassunto qui viene fatto in 5 punti: da una parte la riduzione delle emissioni, o meglio il contenimento nella crescita, nel senso che attualmente ci sono 35 miliardi, miliardi di tonnellate che vengono emessi ogni anno nell'atmosfera. L'obiettivo è contenere la crescita a 40 miliardi di tonnellate, perché se non ci saranno interventi si arriverà invece ai 55 miliardi di tonnellate di gas serra, soprattutto se qui si parla di anidride carbonica, è un gas che viene prodotto non solo naturalmente dalle attività umane, anche da quelle naturali, e che si vuole contenere però per quanto riguarda appunto l'apporto delle attività umane. Poi la protezione dalle acque surriscaldate degli oceani, l'assegnazione di un fondo di 100 miliardi di dollari all'anno per i paesi in via di sviluppo per appunto combattere sia l'aumento della temperatura sia l'innalzamento dei mari, quindi anche la diffusione di tecnologie pulite e di meccanismi ad esempio di riscaldamento, di approvvigionamento dell'energia meno invasivi, meno pericolosi per la terra. Poi la spinta a coltivazioni e impianti ecocompatibili e infine la soglia dei 2 gradi al massimo di aumento della temperatura del pianeta, perché questa viene ritenuta un po' una soglia di sicurezza per evitare cambiamenti troppo pesanti per quanto riguarda il clima della Terra. Cosa cambia e come è il titolo che campeggia su questi 5 punti, questa grande cartina anche con cui il Corriere della Sera spiega soprattutto le emissioni di anidride carbonica nel mondo. Così anche analogamente Avvenire, di cui vi dicevo il primo titolo è proprio più fiato alla terra, i gas serra ridotti su base nazionale volontaria. Ecco, questo è un po' il punto tutto da verificare dell'accordo di Parigi, cioè il fatto che ci siano o non ci siano sanzioni, come potrà poi tradursi in un reale impegno da parte degli stati. Non era possibile naturalmente prevedere un sistema sanzionatorio, del resto era anche difficile immaginare un'autorità sovranazionale in grado di poi irrogare queste sanzioni. Però più di un commentatore sui giornali di questa mattina si domanda se poi ci sarà effettivamente questo tipo di impegno da parte di tutti gli stati allo stesso modo. Non ho citato Repubblica prima nella rassegna, allora lo faccio ora. Fondo banche 100 milioni per i truffati è il primo titolo di Repubblica, e poi clima, storico accordo a Parigi. Anche qui in prima pagina per Repubblica, Garlasco, 16 anni per Stasi, in carcere tra le lacrime. Non ho citato neanche il giornale, che ha un titolo che si rifà alla vicenda del ministro Boschi, Renzi, soci in affari del banchiere fallito, il collegamento tra appunto il padre del Presidente del Consiglio, il padre del ministro Marina Boschi in alcune attività di costruzione di immobili commerciali e anche, ovviamente come sempre succede quando si costruiscono gli immobili commerciali, anche di rapporti con le banche, che viene dato come prima notizia dal giornale questa mattina. Ma il giornale mi serve anche per segnalarvi un editoriale di Vittorio Feltri su quella che abbiamo individuato come un po' la terza notizia del giorno, cioè la condanna, la definitività della condanna di Alberto Stasi, perché Vittorio Feltri, che da tempo si è appunto iscritto, presentato come innocentista o diciamo come fortemente critico nei confronti delle indagini, delle processi che ci sono stati fin qui, dice: più della giustizia ha trionfato la TV, e nel suo commento, che comincia nella prima pagina con questo titolo e poi prosegue nella pagina interna, è fortemente critico e anche caustico in qualche punto con questa definitività, perché dice: vince la TV giustizialista che inchioda l'imputato con un sacco di balle, le televisioni al delitto hanno dedicato decine di dibattiti, i colpevolisti si sono scatenati. Il commento di Feltri quindi fortemente critico in questa decisione, che diventa definitiva con la decisione della Cassazione di ieri. E ora ci fermiamo qualche istante per le informazioni sul traffico. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta In Primo Piano. E ancora buongiorno e buona domenica da Mauro Meazza, ultima parte della nostra rassegna stampa. Vi stiamo raccontando, vi stiamo suggerendo un po' che cosa potete trovare nei giornali quest'oggi in edicola, dalla Stampa, che dedica il suo titolo principale alla intesa di Parigi, patto mondiale per salvare la terra, e poi con un editoriale di Mario De Aglio segnala da subito le incognite di un traguardo importante. Scrive tra l'altro De Aglio: il motivo è doveroso un briciolo di scetticismo costruttivo. Il motivo principale deriva dal fatto che il tavolo di Parigi era mal disegnato. Da una parte avrebbero dovuto sedere i rappresentanti dei governi, dall'altra quelli dell'economia, cioè le grandi imprese, le organizzazioni settoriali dei produttori, anche organizzazioni lavoratori. Si sarebbe dovuto esaminare l'accettabilità climatica di lungo periodo dei processi produttivi oggi adottati e il costo per trasformarli in processi più ecologici. Sulla scena invece sono comparsi quasi soltanto i governi e le burocrazie governative, cioè ora si tratterà di tradurre in azioni politiche quanto è stato deciso sulle meccanismi di produzione, sull'economia, sull'andamento dell'economia, però in assenza, appunto, scrive De Aglio, dei protagonisti. Questo in prima pagina come editoriale della Stampa. Ma poi vi segnalo anche, naturalmente poi la Stampa nella sua terza pagina dà una grande spiegazione di quello che funziona e quello che potrebbe non funzionare di questa intesa di Parigi. I punti di forza ve li ho già ricordati dal Corriere della Sera, li trovate anche su molti altri giornali, cioè le intese, gli obiettivi su cui si è raggiunta l'intesa con il contenimento del riscaldamento globale, i rimborsi ai paesi in via di sviluppo, ma i punti deboli, appunto, sono, tra l'altro, li indica la Stampa, gli obiettivi che sono fissati molto a lungo termine. Non c'è una data per l'abbandono delle energie di tipo fossile e i controlli che sono sostanzialmente autocertificati, quindi anche poi gli stati potrebbero così essere portati, qualche stato potrebbe essere portato a una certa leggerezza nei controlli. C'è una notizia sulla Stampa che non è altrove: il test anti-alcol per gli insegnanti succede in Piemonte, dove è stata applicata, ci riferisce Maria Teresa Martinengo, una delibera regionale del 2012, e quindi gli insegnanti piemontesi, in base a questa delibera che ha rinnovato le prescrizioni di un precedente atto che non era mai stato messo in pratica, ebbene, gli insegnanti dovranno sottoporsi a una visita medica per accertare anche l'eventuale dipendenza da alcol. Inoltre il medico competente, il medico del lavoro, deciderà poi chi dovrà anche fare un test alcolimetrico a sorpresa, chi tra gli insegnanti dovrà farlo. La delibera esisteva già, spiegate Maria Teresa Martinengo, ma in realtà le scuole, per povertà, cioè mancanza di fondi, avevano fin qui ignorato la cosa e adesso hanno un problema in più, in prospettiva però anche molti soldi in meno. Per i presidi sono critici nei confronti di questa misura, che ritengono sostanzialmente uno spreco. Quindi controlli anti-alcol per gli insegnanti in Piemonte sulla base di una delibera regionale, lo riferisce questa mattina la Stampa, che trovate in edicola. Parliamo un momento della Leopolda, questa kermesse, appunto, che si sta svolgendo, dove ieri ha tenuto banco ovviamente l'arrivo del ministro Boschi, coinvolto da queste polemiche legate alle banche in dissesto, ma ne parliamo invece per un'altra iniziativa che non esiterei a definire un po' discutibile o forse di dubbio gusto. Ieri è stata lanciata una sorta di consultazione, a cui peraltro hanno preso in parte molto pochi, un migliaio di persone, sul titolo di giornale che piaceva di meno. E tra i titoli poi che hanno i quotidiani che si sono visti assegnare questo primato, ripeto, da una platea molto ristretta, sono stati il Libero, tra l'altro, e anche c'erano più citazioni per il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano decide di dedicare la sua pagina 2-3 a queste vicende, appunto stigmatizzando, criticando questo atteggiamento così prendersela con i giornali, che di solito non è mai un buon argomento. È una sorta di infortunio della Leopolda, che viene ripresa peraltro anche da altri giornali, non solo da quelli citati naturalmente come esempio negativo, ma anche da quelli che non erano stati coinvolti dalla votazione. Stiamo ancora invece sulla questione del delitto di Garlasco. Vi segnalo dal Secolo XIX oltre al resoconto naturalmente di come è andata la sentenza, come sono stati appunto i passaggi che hanno portato a questa sentenza, un'analisi di Marco Menduni che mette in parallelo il delitto che aveva visto coinvolta Amanda Knox e Raffaele Sollecito e invece il delitto di Garlasco di Stasi, e dice Amanda e Stasi la cassazione dei due pesi e delle due misure. Menduni parla apertamente sul secolo XIX di un garantismo a corrente alternata, dice la sentenza sul delitto di Perugia, l'ultima, cioè quella che ha definitivamente assolto Amanda Knox e Raffaele Sollecito dall'accusa di aver ucciso Meredith Kercher, aveva stabilito alcuni principi che tra l'altro erano i vie vicine. Scientifici devono essere eseguiti con rigore, le indagini devono seguire almeno un minimo decente di logica e va indicato il movente con una certa verosimiglianza. Più avanti, appunto, nella sua analisi, Menduni segnala come invece su questa vicenda di Stasi sembra che la Cassazione non abbia seguito gli stessi criteri, perché dice la conferma della condanna a Stasi è un passo indietro, sia colpevole o meno, non c'erano contro di lui più indizi che su Amanda, più che su Sollecito, e le indagini poi si sono mosse da subito nel caos, la scena del delitto è stata calpestata da 24 persone, l'autopsia non ha rispettato nemmeno i protocolli più elementari. Insomma, una decisione che anche per questo parallelo con un'altra decisione recente della Cassazione, quella appunto che aveva riguardato Amanda Knox e Raffaele Sollecito, è destinata probabilmente a far discutere ancora. Intanto ricordiamo appunto Stasi è già in carcere, l'avete sentito anche nel corso del nostro giornale radio, la condanna è a 16 anni. Abbiamo ancora credo un minuto, mi conferma Peter Bescapè questa mattina in regia che abbiamo circa un minuto, e allora vi vorrei anche con una certa soddisfazione segnalare il titolo della Gazzetta Sportiva, che poi naturalmente lascerò come una staffetta, come il testimone di una staffetta all'amico Alessandro Milan per domani. Scrive la Gazzetta Sportiva: Stra Inter, nerazzurri scatenati 4-0 a Udine, decolla pure Icardi, due gol e il volo continua. Allora mi perdonerete per questa caduta nella passione calcistica, in realtà poi sulla Gazzetta di oggi c'è anche la segnalazione del sorteggio, il Belgio e la Svezia nel nostro girone insieme all'Irlanda, il gruppo E, il sorteggio, e si dice il Belgio e anche Ibra, ma noi siamo l'Italia, non dobbiamo temere appunto questa vicenda. E con questo credo di aver esaurito il tempo a mia disposizione, naturalmente sui giornali di oggi poi molte altre vicende rispetto a quelle che vi ho segnalato, questi però i temi più importanti. Vi ringrazio dell'ascolto, grazie anche a Peter Bescapè per l'aiuto in regia e a tutti ancora una buona domenica.